Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, parliamo di housing sociale temporaneo. Questa sera un tipo di offerta residenziale molto poco presente in Italia, nonostante vi sia una domanda apparentemente crescente per questo tipo di servizio. Ne parliamo con Lorenzo Allevi, che è amministratore delegato di Oltre Venture, una società di venture capital che investe in progetti con forti ricadute sociali, ed è anche presidente di Sharing, società di proprietà di Oltre Venture che nasce proprio per gestire servizi di housing sociale temporaneo. Buonasera Allevi. Buonasera a lei. Dunque, voi siete attivi in questo momento principalmente a Torino, vi siete recentemente aggiudicati due progetti, due bandi, la riqualificazione di un'area malmessa di Torino, Cascina Fossata, e anche la gestione di uno studentato, ma soprattutto voi gestite dal 2011 il progetto di housing sociale temporaneo di Via Ivrea 24, sempre a Torino, che oggi è un caso abbastanza unico nel suo genere. Ecco, partiamo da questo ultimo caso, le chiedo proprio di spiegarci come funziona questo business legato ai soggiorni temporanei. Grazie per la domanda che mi permette di far conoscere questa nuova realtà che è Sharing, che è una società che è detenuta sia da Oltre Venture ma anche da un'importante cooperativa torinese che è la cooperativa DOC. Allora, noi come Sharing abbiamo preso in affitto questo edificio molto grande di 10.000 metri quadri da una società alla quale noi paghiamo un affitto annuo importante, circa 600.000 euro, e attraverso una gestione efficiente riusciamo a rendere disponibili questi appartamenti di natura appunto temporanea a una diversità di tipologie di utenti che vanno dai lavoratori fuori sede, dalle giovani coppie, dagli studenti, dai parenti di pazienti che vengono a Torino per farsi operare, e anche da quelle persone che sono in attesa di casa popolare, in questo momento non hanno casa e quindi transitano attraverso le nostre strutture. Tutto questo noi cerchiamo di farlo ovviamente sia con una forte componente relazionale, quindi sociale, nei confronti dei nostri utenti, ma con una forte componente anche economica, nel senso che siamo una società di capitale e quindi i nostri ricavi devono superare. Le finalità sono sociali, ma come dire, il vostro fine è di lucro. Ecco, insomma. Lucro che serve semplicemente per durare nel tempo, nel senso che appunto essendo una società vogliamo durare n anni, e per far questo deve essere sostenibile. Dunque, per chiarire, insomma, il vostro compito è quello essenzialmente di incrociare domanda di alloggio temporaneo ed offerta, ed è questo, diciamo, una forma di business abbastanza recente. Tra l'altro so che nelle vostre abitazioni per esempio ospitate anche dei neodivorziati, dei neoseparati, perché spesso, insomma, quando avvengono questi casi, poi uno per un po' di tempo non sa dove andare a vivere magari, no? E per un anno e mezzo può avere bisogno di una sistemazione temporanea. Purtroppo la domanda di questa tipologia di utenti è in continua crescita. Esatto. Poi fate accordi con aziende, che per esempio lì a Torino c'era Chrysler che sta mandando, mi risulta, insomma, un po' di dipendenti a Torino, e anche in questi casi si ha bisogno di un alloggio temporaneo. Questo per chiarire che si tratta di un business a tutti gli effetti, no? Volevo chiedere, sì, dicendo che noi mettiamo a disposizione questi alloggi con cucina arredati e corredati. Certo. Questo vuol dire che una persona viene, soprattutto appunto le giovani coppie o i divorziati, senza portarsi nulla, no? E quindi diamo un alloggio completo. Questo, certo, è molto importante in caso di emergenza. Certo, è molto importante. Insomma, diciamo che da un punto di vista anche dei costi, voi vi dovreste posizionare a metà, insomma, tra quello che è il costo di un soggiorno alberghiero, che spesso è insostenibile per lunghi periodi, e invece quello che magari può essere una abitazione affittata per 8 anni consecutivi, no? Questo, insomma, esattamente così. Abbiamo, credo, descritto bene come funziona la cosa. Ecco, le volevo chiedere, in questo momento di forte crisi del mercato delle costruzioni, volevo capire se questa prospettiva, se questa tipologia di business può fungere in qualche modo anche da opportunità di rilancio per il mercato in questione. Secondo me sì, in questo senso. La domanda di housing sociale temporaneo è molto forte. Noi abbiamo fatto Via Ivrea 24, adesso faremo Cascina Fossata, e siamo in contatto con importanti comuni del nord Italia per replicare. Perché, ecco, sono situazioni, mi scusi, nel quale si fa una ristrutturazione anche di, diciamo, situazioni abbastanza grandi, ecco. Sì, Sì. Quella cascina fossata è una ristrutturazione molto grande. Allora, a fronte di questa domanda, quindi di questa utenza che cerca queste nuove soluzioni, esistono dei fondi creati prevalentemente dalla Cassa Depositi e Prestiti attraverso il sistema integrato di fondi, che mette a disposizione per questi progetti e anche per progetti di housing sociale tradizionale, circa 2 miliardi di euro proprio per questi progetti. E quindi secondo me attraverso questi fondi è possibile rivitalizzare questo settore, è quello che si sta facendo. Ecco, questi 2 miliardi, così lo spieghiamo, sono già stati stanziati, ma non sono molte le domande di utilizzo, perché per essere chiari le aziende, i costruttori in questo momento non riescono a vendere quello che hanno già costruito, quindi difficilmente si impegnano per costruire soprattutto housing sociale, quindi costruzioni a basso costo, si farebbero concorrenza da soli. Però questa applicazione nel settore dell'housing sociale temporaneo esula un po' da questo discorso, potrebbe fungere da attivatore. È un altro settore in cui si potrebbe investire molto. Io so che la Cassa Depositi e Prestiti sta proprio promuovendo, secondo me in maniera molto efficiente, altri progetti proprio per aiutare tutto il settore. Il loro scopo principale è quello di creare nuovi alloggi proprio per questa utenza. E secondo me c'è il futuro è roseo da questo punto di vista. Grazie a Levi. Prego. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.